faccio, biondo è diventato. Ma no, vedi qua, bro. pra. Mamma mia. Allora si abbagliava per questo. Però ma si dice che siamo maladucati, dimmi. Allora, sì, vabbè, dai. Già è un orario tranquillo. E infatti. Noi non siamo espliciti parlando. E beh, quello è poco ma sicuro. Kurt, cosa vuoi? Il premio vuoi? Si ha mangiato tutto e vai giunto a domandare un brino, ti immaginici? Aspetta un attimo, che birro do così, no, si può abbaggiare. Oh, yeah. Ma vi le date un vizio? Bene, dai, ancora siamo vicini. Uscita quasi la bretellina. Cavalcata. E quando esci dalla superstrada avvisami. Ok, yeah, ti chiamo, dai. Cappagatta. Avanti Natalino. Eia, vi ha giurato, visto? Ma se gagliamo due. Se non vi lo dai, chi non ti nabizzi, allora si può abbaggiare. Perché lui viene e si siede, no? E ti guarda. E mi tu da chissù. A chi mi abbaindano. Avvisi, ebbene, tacciati. Cappagatta. Ma il cane ha preso te l'ha portato. Quello si è seduto e non si è più alzato appena ha visto il camper. Si è fatto anche una bella dormita dentro. Solo a lui c'hai? No, ho una famiglia. No, dico di cane. Solo a lui, il pastore ce l'hai in campagna. Sì, sì. 100 metri. Poi se volete passo di tedesco ditelo, che ne ho 8 ne ho. Cazzo. La femmina è il pastore tedesco? Sì, sì. Però è stata accoppiata e quindi ha fatto 8 cagnolini. Cappagatta. E sono anche belli, li ho visti, sono belli. Si assomigliano, forse al pastore tedesco. Il colore, vabbè, più o meno è quello lì, no? Quello del pastore tedesco è come, più o meno come quello dell'altro, però non si comprende ancora bene. No, no, si assomigliano molto al pastore tedesco, proprio alla mamma. Oh, vabbè, ma comunque sempre cani da guardia sono. Avanti, Tattalino. Eia, mia vai, tranquillo, vedo. Vabbè. Commenti, Lugo. Viene e dice, beh, non ti affacci. Io mi abbizzo subito quando vado così. La parola rimanca ai sugani. E allora no, adesso ancora giù, loro stanno giù un'oretta, se puoi stare, e gli faccio la scena, dai. Il mio è carnivoro, mangia garri, uia. Io sono Chicchio, Chicchio mangia tutto questo che gli dai, cioè che gli dai. E allora la roba che mangio io, cozzinoso sia, abituato a l'America c'ha padre Giugano. Ma ci sono cose che non li puoi dare al cane, tipo roba col sale, io gliela faccio la pasta senza sale, capito? La pasta senza sale, la carne ce la faccio con la pera di olio oppure bollita direttamente, senza sale sempre. Gli metto un po' di formaggio grano e mezzo, un po' di crocchette, un po' di crocchette e ho fatto io. E se no non ribia di rugaggio, puzzinoso. Ci sono cani che si mangiano anche la verdura, c'è un cane che scende giù e la padrona li deve comprare sempre, non le lattue, come si chiama? La belga gli piace. E dico, quella è erba, è dura pure ma tessi. Io gli dico, ma no, la pigliura. No, io non li do le cose, le verdure, questa roba qui non ne do. Non mangia carote, non mangia zucchine, anche se qualche volta cerco di fregarle, la metto in mezzo, le la schiaccio e lo frego, però se se ne accorge non mangia più nulla. Già lo so, sono fatti così male, giusto. Cazzo, è una cosa di Giugani, guarda, la parola gli manca, non sembra vero. Ma un'intelligenza spettacolare. Sì, i cani sono intelligenti, c'è poco da fare. Ma questo in particolare è una cosa, boh, ma pari vero a raccontarlo i suoi fatti. E l'altro che ho avuto io lo stesso era un intelligente, poi vabbè, l'ho dovuto dare a Marco, mio cognato, a portarselo in campagna perché Liliana aveva partorito e un giorno l'abbiamo trovato nella culla leccando la bambina e lì non l'ha più voluto. E però no, a questo livello non lo voglio più. Mi dispiace anche a me, se voi siete venuti tutti i mesi, noi eravamo affezionati, Chica si chiamava, l'avevo trovato a Porto Torre, su una giornata di grandine. Mi sono fermato e ho visto questo battuffolo di cotone, cavolo, bianco bianco con la coda arricciata. Ho aperto lo sportello e si è entrato in rete, cosa vuol dire? L'ho mandato. Infatti, inseguimenti che ha già un figliolo, io è una cosa che non si gridi, e non ne volevo io cani, mi da quando mi eravamo sciocchito non ne volevo più, l'ha giubilato Baedda, se no non avevo voluto. Va bene, Attorino, ma tu lo sai, magari si dà un amore diverso, però è sempre amore che si dà agli animali, dai. Purtroppo è così, a me non mi è morto il pappagallo dopo un mese che ce l'avevo, quello che parlava. Me l'ha dato col virus, quel bastardo, e non mi è morto. Eppure me ne ha fatto una ragione e me l'ha giubilato un altro, quasi 300 euro. Ma figurati, non lo sapevo che te ne era morto uno, no? Sì, all'inizio abbiamo preso due, uno dei quali praticamente questo allevatore di Nuoro, la zona di Nuoro, me l'aveva portati e niente, dopo un po' cominciava a vomitare questo pappagallo, l'ho portato da l'unica che c'è a Sassari, dottoressa Viaria, mi ha detto che c'aveva un virus, si è dato la cura, non ce l'ha fatta lo stesso, l'ho trovato morto nel fondo della gabbia, sicuramente era incubato già il virus e l'ha sviluppato quando era a casa sua, perché non ce l'avevo manco un mese. Vuol dire che così proprio. Quando l'ho telefonato non rispondeva nemmeno l'allevatore, capito? Sicuramente lo sapeva, ha fatto il bastardo. Io ne volevo uno solo di pappagallo e lui mi ha detto se se ne sente dentro di io ti faccio lo sconto, ma ha fatto lo sconto, la verità. Però l'ha fatto perché lui sapeva già che lì si era malato. Manco mai non ti ha infettato l'altro, se non morire tutti e due. Si metteva a vomitare quando l'ho telefonato, la dottoressa mi ha detto che poteva essere anche il fatto che una forma d'affetto, perché loro lo fanno con i figli che mangiano la roba, poi la vomitano per darla da mangiare, no? E lo fanno come forma di affetto. Ho detto, possono essere due cose, quello oppure perché sta male, quindi me lo porti qua che lo visitiamo. L'ha visitato e mi ha detto che c'aveva una forma virale, che il pappagallo era anche più magro di quello che doveva essere, che non pesava manco un letto, che era messo male, capito? E infatti dopo poco tempo mi è morto, mi ha dato la cura e mi ha detto lì, a questo dovrebbe passarli, con questo qui invece non gli è passato un cavolo, non è muro. Che studiare. Brutta cosa. E poi quelli costano mala sorte. I 300 euro costano. Ce l'ho 200 di pappagalli a casa, sono dei miei, poi ci sono l'altra razza. Già lo so che c'hai anche gli altri. E adesso ne ho venduto due e mi hanno rifatto i pulcini, stavano diventando grandi e di nuovo stavano facendo. Cazzo, ho detto, ma io sono la moda mai. Alle dai, quasi entrate galleria, eh. Ehi, a dove sei, Tino? Tra un po' non mi sento. Buonasera. In galleria è entrato, ha detto. Buonasera, chi è avanti? Ciao Gianni, ciao Natalino, ciao anche a Tino, Santiago Nove, ottavo a Tino. Buonasera, avanti già. Sì, ciao Mari, ben sentito, Avanti Tino, dove sei adesso, mi ascolti? Sì, sono quasi all'entrata delle gallerie, salutami a Giulio che l'ho salutato piccolo piccolo, dai, pensaci tu Gianni, tanto sto entrando in buca ora. Ciao, va. Ti saluto Tino. Ma chi a me? Piccolo non è un piccolo piccolo, ciao Tino, io ti sento un Santiago di Nove, ottava. e avanti io da lì. E capo, ciao Marino, buonasera, ben entrato. Perché in camper sta viaggiando, ho capito. Tino è col camper. Ma tuo figlio non gioca domani, oh Tino? È in bocca, sì. È dentro la buca, Marì. Ah, dentro le gallerie, sicuramente non si sente. Avanti, già, vabbè, ancora a casa, sì. Gianni. Io sì, sono ancora a casa, dai, sono ancora a casa. Purtroppo sì. Va bene, dai. Siamo qua, come mi stai ascoltando lì da quelle parti, Marino? Come dice Marino, che c'è una fermata allucinante. Fermata, ciao Claudio, buonasera. Guarda in questo passaggio, Claudio, lo stesso? È una fermata pazzesca, buonasera a tutti. Allora andiamo fuori. Ciao Tino, dai, vi saluto. Marino, c'hai una fermata allucinante. Buonasera a tutti. Ciao Tino, ti è scampata oggi anche, mi vado in una prova. E beh, se di fronte a me ce lo vedo che ti sento. Ciao Tino, buonasera. Dai, poi ci sentiamo quando rientri, così ci facciamo quella roba là. Ciao a tutti ragazzi, avanti Gianni. Tino, oh Marino, c'è una fermata allucinante. Gianni, riprendi. Buona serata a tutti. Ciao Claudio, ciao, ben sentito anche a te. Tino, dove sei? Io, guarda che ti sta chiamando Gianni. Aspetta già che entra una roba. Ok, vai Marino. Marino. Se vuoi la sera non sbaglio. No, già sei, la subito anche. Qua dai, vi saluto, continuate pure, ci sentiamo, ciao ciao. Controlla Marì perché c'è un'alternata allucinante. Io adesso controllo Claudio, grazie. Grazie Claudio. Avanti già. Adesso non ne hai. Ho capito cos'è, ho già capito, basta. Ho cambiato il microfono. Allora il microfono. Boh. Grazie. Ho già capito cos'è. Allora il microfono Claudio. Ho messo qua manuale. Ok, avanti già. E invece a me me la causa l'alimentatore, mi faccio con l'alternata, se sono l'alimentatore, ma non l'alimentatore con l'apparecchio perché ce l'ha interno, io ho un altro alimentatore che uso per le luci, questa roba qua. Aspetti, Gianni sta chiamando Tino, dimmi sì. C'è un importante, cosa hai detto ti? Vabbè, senti a me è normale, Gianni adesso lo sentirà sicuramente che aggancia. Vai Gianni, se no non sente nessuno Tino. Io già lo sento un pochino, Tino li ascolti? Sì, io ti ascolto. Cala gara, dai. Dai, fa un buon viaggio, ogni tanto chiamo, avanti Natalì. Sì. Ciao Claudio, buon proseguo. E cosa vuoi dica già? Purtroppo, allora è passato la sabbatia della galleria, anche io lo sentivo basso basso a Tino. Ma poi lì, quando è quella roba là? Se non chiamare Antonio, che giorno è? Non si sa, hanno fatto slittare perché saranno un po' incasinati lì. Capito? Stanno spostando tutto, non so, e quindi hanno fatto slittare la data, non è più quella. Ho capito, sì, per il nuovo governo, ma l'ha accennato Antonio, va bene. Aspettiamo, dai, aspettiamo, in bocca al lupo a tutti. Vai, Marino, riprendi, vedi un po' se senti a Tino, dai. No, io vi lascio che c'è roba al forno, ma vi stavo ascoltando già da poco fa, dai. Ci sentiamo semmai dopo se ci siete, vai Marino. Alla fine l'ultimo passaggio, Santiago di Rosso, l'ultimo passaggio. Ma avanti Tino, l'ascolti? Tino, ti ha chiamato Marino, l'hai sentito? Ma c'è una roba anche qua, telefono basso. Gianni, lo senti tu? No, non l'ho sentito adesso. Tino, avanti. Sì, io ti sento, basso basso ti sento, ma ti ha chiamato Gianni. No, io non lo sento, non lo sento Claudio, non lo sento per niente. Ormai ci allontana, non lo sentiamo più, neanche io forse, non lo so. Dai ragazzi, un abbraccio a tutti e ci sentiamo alle prossime. E niente, vai in bocca al lupo a tutti, vai già, riprende e fai girare. Comunque c'è una portante ogni tanto, con un rumore sotto, non capisco. Magari vorrei uscire con questo un rumore strano. va bene, dai Claudio, siamo qua, se vuoi entrare dopo siamo di qua, dai. Ciao, buona serata e buona carica quando la fai. Grazie, grazie anche a voi, dai, sentiamo dopo, vai Natalino. E capa, ne approfitto io per chiudere che qua devo fare cosa, dai, ci sentiamo alle prossime, quello ci permette, salutoni a tutti. Ciao, ciao Natalino, ti ho ascoltato adesso, avanti. Ciao Tino, non so dove sei arrivato adesso, ma ti ascolto, dai. Ciao, va bene. Va bene con l'antenna, va bene con l'apparecchio, tutto. Ciao, stammi bene, buon continuo di viaggio, vai. Avanti, a chi tocca? Marino, avanti. Benissimo, adesso ho un passaggio, Santiago 7, ma molto basso il radio, Tino, comunque l'ho ascoltato. Ciao Claudio, ben sentito, là, buona carica, ci sentiamo dopo se in caso. Ciao Natale, ben sentito, buona carica e saluto dalla Concetta. Avanti, signor Gianni. Sì, come tu hai detto, lunedì devo andare là, e poi vediamo un po' se sono fortunato, martedì mi ricordo, se no dovrò aspettare ancora, altri dolori, altra cosa. Speriamo bene, speriamo qualcuno rifiuta, che molte volte succede qualcuno magari rifiuta o c'è qualche problema e così via. Speriamo, dai, che almeno una volta fatto e ti passa tutto, dai. C'è una portante, questa Santiago 9 sta arrivando. Avanti, avanti questa portante, chi vuole entrare? Avanti, chi vuole entrare? Nessuno, avanti già. Guarda che c'è l'Alghero che stava parlando, aspetta. Avanti Alghero, mi ascolti? Cappa Mirko, vai, ti ascolto basso perché c'è anche uno che mette la portante mentre parli e un po' sta disturbando, vai. Non finisce la luce, avanti Bari. Non è negativo amico, non ascolto che c'è un po' di problema, ma di giorno lo ascoltavo, oggi è negativo, c'è un po' di problema, mi sta salendo. Ok, se mi sta ascoltando non lo sera. Bene, avanti già. Mari, abbassa quel microfono perché si arriva tutto troppo saturo. Guarda in questo passaggio, va bene? Adesso va meglio, sì. Magari lo stavo parlando troppo a voce alta, perché arrivo a bissarlo. E sono una stanza e ribomba anche. Sono una stanza e ribomba, tutto qua. Il tuo segnale è sempre 9.15, è ottimo segnale, va bene con l'antenna già, eh? Ah, già va bene, lui ha voglia, già appurato. Ah, già va bene, no, non mi posso lamentare. E a livello di manto, sai, è come la manto, fa gli stessi segnali. Esatto, esatto, l'ho aumentato, ma già va bene, io quando passo il cambio già la guardo. Ultima, ultima, già va bene, dai. Io ho sempre ancora la stella. Sempre la stellina, un po' bassina, ma già va bene, dai. Cappa, e da quanto ce l'hai la stella? Da un po' di anni ce l'hai? La stella ce l'ho, almeno 3-4 anni la stella ce l'ho. Ce l'ho 3-4 anni, adesso la devo scendere, se non voglio, anzi, veramente non ne voglio, non ne scendo. Dovevo cambiare la protezione tonda, dove c'è la serpentina, diciamo, la bobina, quella fai trasparente, e mi si è bucato, sai, il caldo, il gelo e tutto quanto me l'ha bucato. Adesso l'ho protetta, l'ho messo dal nastro e così via, ma ho già procurato una bottiglia, quella in plastica per scadura, e faccio la protezione, con calma. Metti un po' di resina, vedrai che la tappi bene, un po' di resina, o anche silicone. E quello che ho fatto, quello sono salito sopra, acqua già non entra, acqua già non entra, dunque già dalla coperta, diciamo, dai. Cappa, no, va bene, ho fatto lo sbaglio a prendere quella là, però ho voluto sempre antenne performanti, anche la Grand Prix che ci avevo con i radiali 275 della Lema era buonissima, arrivavo bene anche all'Alghera, arrivavo nel V5 all'Alghera da casa di mamma, da Sacro Cuore. Ma questa va bene, guarda, questa è l'ultima già, questa è l'ultima come antenna, perché come segnale si è ultimo, 9.15, non ho capito, va bene, sei in alto, però già va bene, dai. Questa mi ha dato mio collega che sinceramente l'aveva trovata, sinceramente. C'aveva la come si chiama? La staffa 18 io non uscivo male, cioè la staffa a verniciata. Verniciata di nero e così via, dunque mi faceva massa, mi faceva casino. Allora poi ho procurato un pezzo di acciaio inox, ho procurato, l'ho piegato alla staffa e allora col pomodoro da chiso in campagna asciuga l'abbiamo sistemata. L'ho apparsa e l'ho cambiato il pezzo di filo di rame che c'era all'interno e con la chiso l'abbiamo salvato e va bene, va, grazie a Dio per il momento va bene. Fino a quando dura, se no la bilogia lampo, avanti. Io la manto va la butta 12 anni, 12 anni, l'ho scesa solo una volta, con Fabrizio l'abbiamo messa a posto, l'ho ricostruito dove si è attaccato perché l'ha ruggito, insomma le ha cambiato le cose che doveva cambiare ed era perfetta, poi mi si sono rotti i radiali, alla fine mi si è rotto la scatola perché l'ho cambiato due volte e veniva sempre quello della massa a portarmi i radiali che rientravano nel terrazzo, quindi non volevo disturbare nessuno, l'ho cambiata. Vabbè Mari, ti saluto, dai, che qua sono ritornati col cane e devo cenare, dai. Ci sentiamo, stammi bene, buona giornata per domani e controlla il segnale, che tu fossi andato il segnale troppo basso. Allora, il tuo segnale è 9.20 adesso già, 9.20 qualcosa, il tuo segnale. Il mio basso perché sono piccolo piccolo, se uno da fare. Ok, ciao già, buona carica, domani ci sentiamo. Ok, saluto le scultore anche per me, QRT. Ciao ciao. Ciao ciao Mari. Figurati tu, quindi ecco perché di cosa vuoi fare, fammi sapere così me lo ti metto in mezzo e me lo sei tranquilla. Sì, a me, grazie, già ci aggiorniamo in settimana e ci vediamo là, ciao, vado a mangiare, ciao ciao. D'accordo, ok, ciao, alla prossima, ciao ciao ciao. Altrettanto a te, non c'è problema, tranquillo. qui giù, giù qui giù.